passo più o meno? Ma io ho scattato delle foto da più distante. Hanno incendiato le barricate, noi abbiamo visto solo in quel punto, quando è iniziato il fuoco. Hanno lanciato i fumogeni che sono arrivati qui, quindi i ragazzi sono un po' scappati, sono spaventati e si sono spostati. E poi è durato un po'. Sì. Ci siamo infilati in un bar, quasi zona, che ci hanno detto che si sarebbe potuto stare tranquilli senza avere conseguenze. E in realtà poi questo qua ha chiuso il bar, quindi siamo dovuti uscire, lì siamo stati 3 ore perché questi continuavano a rondare in giro. Sì, le stavano lì e solamente loro giravano per i gente, non potevi muoverti lì fuori e continuavano i 5 minuti a passare in 10 carabinieri e fare il giro. Alla fine c'erano tutti dei carabinieri sul tetto, se ne erano messi in sé, erano dappertutto. E a un certo punto quando cominciavano le persone cominciavano ad andarsene perché non sapevano bene cosa fare, cioè se restare lì e aspettare che facesse, che succedesse qualcosa, cioè che se ne andasse, oppure fare ad andare verso la polizia e cercare di passare. Noi a un certo punto abbiamo deciso, eravamo in 20, di andare in là, esatto, siamo andati, siamo usciti, cioè non c'è fasce di controlli, la prima barriera di più o meno qua davanti, la seconda dall'entrata di Cristiania, la terza un po' dopo